L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Questa settimana parliamo di acqua, parleremo quindi molto di referendum, di quello che è in programma il 12 e 13 di giugno, ma lo faremo partendo da Bruxelles, dal cuore dell'Unione Europea, dove questa settimana si è tenuta la Green Week, la settimana verde coordinata dalla Commissione Ambiente. Una vera e propria raffica di incontri su tutti i temi della sostenibilità, dall'acqua, di cui appunto parliamo tra poco, alle energie, al consumo del territorio, alla pesca, all'agricoltura, ai lavori verdi. Avremo occasione di riparlare di tutti questi temi nelle prossime settimane. Il primo spazio a nostra disposizione sarà quello dei reportage di Radio 24, in onda sabato prossimo 4 giugno alle 8:15, poi ci sono le repliche, c'è il sito internet, quindi sono tante le modalità per non perdersi questo appuntamento. Adesso però è il momento di tornare all'acqua. Sul tema dello spreco di acqua, sulle possibilità di intervento, sugli esperimenti già in corso, si è discusso molto, come dicevamo, a Bruxelles in vari incontri, ma ce n'è stato anche uno specifico nel corso del quale abbiamo scoperto, tra l'altro, che l'Italia partecipa e ospita alcuni interessanti esperimenti in Emilia per l'irrigazione dei campi con acque di recupero e in Sicilia per l'irrigazione con acque desalinizzate. Perché non dimentichiamoci che nel mondo la maggior parte dell'acqua viene utilizzata dall'agricoltura, siamo al 70% circa dei consumi. E per farvi un esempio di quelli che sono stati fatti a Bruxelles, ai nostri giorni c'è sempre maggiore richiesta di cibi, perché siamo sempre di più, e in particolare di cibi né a chilometro zero né a basso consumo d'acqua. In Gran Bretagna il 60% del cibo, è stato sottolineato, arriva dall'Europa del Sud, che quanto a sfruttamento di acqua è già sotto pressione di suo. Detto questo, in mezzo a questa grande discussione, facendomi piccola piccola ma consapevole dell'opportunità che avevo, mi sono fatta avanti e ho chiesto ai soloni della conferenza che cosa ne pensassero del referendum italiano sulla cosiddetta privatizzazione dell'acqua. Insomma, secondo loro, che avevano studiato il tema in mezzo mondo, chi è meglio che gestisca, non le risorse, perché non è questo in discussione il 12 e 13 di giugno, ma gli impianti, le infrastrutture, i modi, la distribuzione dell'acqua. Prima risposta, il professor Enrique Cabrera Marcet dell'Università Politecnica di Valencia, in Spagna. In my view, it is a matter of public or private. It has dal mio punto di vista si tratta di un tema tipico da privati, ma ci sono vantaggi e svantaggi. Il problema è che esistono management professionali e non professionali. Quindi, secondo me, è necessario che esistano organi di sorveglianza capaci di controllare che i professionisti siano veri professionisti. Il punto non è pubblico o privato, ma un lavoro fatto bene o un lavoro fatto male. Giulio Boccaletti è invece una di quelle grandi teste pensanti italiane che ci lasciano per andare all'estero. Lavora infatti per la McKinsey, dove si occupa di strategie di crescita e regolamentazione, in particolare per quanto riguarda il mondo dell'acqua. Credo che il punto del referendum italiano sia non se si deve, ma se si può. E cioè, non se si deve puntare sui privati, ma se si può puntare sui privati. Sono in gran parte d'accordo con il professor Cabrera. Ci sono alcune cose che sappiamo per certo, che i servizi idrici costano, anzi, che non solo costano, ma che ci vogliono i capitali per fornirli. La domanda quindi è: chi è in grado di fornire questi capitali e di gestire il servizio? Ci sono molte possibilità. In alcuni paesi ha funzionato molto bene la partecipazione dei privati, Francia e Gran Bretagna, per esempio. In altri è andata meno bene. Abbiamo esempi di tutti i tipi. Non deve essere una scelta ideologica, ma una questione pratica. Il referendum chiede alla gente di dare una risposta molto difficile, tecnica. La risposta giusta può essere in entrambe le situazioni. L'Italia, il nostro paese, ha già esempi di cattiva gestione e buona gestione, sia tra le aziende pubbliche che private. Il terzo a voler intervenire sul tema, proprio così è stato perché è lui che ci ha chiesto la parola, è il dottor Raghab Raghab, presidente del comitato britannico ICID, e cioè la Commissione Internazionale per l'Irrigazione, che è una organizzazione non governativa. In the UK we have The water is private sector so far. In Gran Bretagna l'acqua è gestita dal privato, ma c'è il controllo dell'Agenzia per l'Ambiente, perché l'estrazione di acqua dal sottosuolo non dovrebbe essere lasciata nelle mani dei privati, altrimenti si potrebbe verificare, ad esempio, un eccesso di prelievo e quindi di sfruttamento delle risorse comuni. Secondo punto, ci dovrebbero essere delle linee guida per la qualità dell'acqua, da rispettare assolutamente. Terzo punto, ci vuole un controllore per i prezzi, come l'abbiamo in Gran Bretagna, che dica non alzate i prezzi. Come è successo da noi durante la siccità, sarebbe ingiusto nei confronti della società. La società deve sapere che c'è un periodo di siccità e comportarsi di conseguenza, ma questa non deve essere solo una scusa per i gestori per alzare i prezzi. I costi devono essere regolati da un controllore. Sono questi, secondo me, i tre punti chiave affinché un gestore privato operi correttamente. Non si può dare completa libertà di azione. Quindi tre voci di tre esperti, nessuna opposizione di principio alle privatizzazioni, con i paletti che però ci hanno indicato, compreso quello della non obbligatorietà dell'azione. Come dice Boccaletti, il punto non è se si deve puntare sui privati, ma se si può puntare sui privati. Di tutt'altro avviso è stata invece Mercedes Bresso, che tra l'altro esprime giudizi assai diversi su come sono andate le privatizzazioni in Gran Bretagna. Mercedes Bresso la conosciamo tutti come ex presidente della Regione Piemonte, ora è la presidente della Conferenza delle Regioni Europee. Anche lei a Bruxelles per la Green Week, la Bresso ha sottolineato nel suo intervento la necessità di aumentare l'efficienza europea, non solo in campo energetico, ma anche nel campo dello sfruttamento delle risorse in generale, risorse come l'acqua. Mercedes Bresso ha parlato, tra l'altro, nella sessione di apertura e quindi è stata una sottolineatura da parte della Commissione europea che ha organizzato gli incontri di quanto siano importanti le regioni, le amministrazioni locali, nell'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. Comunque, colta a margine della conferenza, la Bresso dice: il tema dell'acqua è credo quello che prima, il nodo che verrà prima al pettine a livello mondiale, con uno sviluppo molto veloce a cui stiamo assistendo. E sull'acqua l'indicatore, diciamo lo strumento del prezzo potrebbe essere molto pericoloso, perché vuol dire privare di una risorsa essenziale alla vita le persone, e quindi è proprio un campo in cui il risparmio di risorsa deve essere fatto attraverso delle politiche, non attraverso l'indicatore del prezzo come può essere in altre risorse. C'è un'indicazione, pensavo al nostro referendum che avremo in Italia a giugno, in questo senso, che può arrivare dall'Europa, di pratiche, di modi di gestire? No, certo, tutta questa settimana è essenzialmente orientata allo scambio di buone pratiche nell'uso delle risorse, anche perché ovviamente c'è una distinzione fra due commissari, no? Un po' è questa la ragione, ma un'altra è che sul risparmio e sul riutilizzo delle risorse finora si è detto molto e fatto poco. L'uso delle buone pratiche, che è un po' la caratteristica dell'Europa, quello di scambiarsi le pratiche migliori, permette su molte cose, dall'energia alle risorse, di far vedere che c'è chi ci è riuscito e quindi che si può, e di norma questo riduce anche i costi pubblici, le spese per la pubblica amministrazione, non le aumenta, almeno quando è fatto bene. In qualche caso è anche una grande opportunità, perché permette di, ad esempio, di risparmiare energia, e questo vuol dire minori costi per tutti gli usi pubblici, permette di avere minori costi per tantissimi dei servizi pubblici da fornire, pensiamo appunto anche all'acqua, no? Però è chiaro che servizio pubblico è un servizio pubblico certamente pagato, ma che deve essere tenuto a dei livelli di costo accettabile, quindi potabilizzare l'acqua per poi buttarla via, sprecarla, è veramente un delitto, perché la potabilizzazione è un costo e poi la depurazione non ci ridà l'acqua come era all'origine. Quindi l'acqua, lo dicevo, è uno dei temi importanti, e dall'Europa viene il messaggio che le pure politiche di privatizzazione possono essere molto pericolose, perché non hanno funzionato bene in Gran Bretagna, anche in Francia hanno costi molto elevati e chi ha provato a tornare al servizio pubblico ha avuto una diminuzione immediata del costo per i cittadini e per il pubblico. Quindi anche qui bisogna stare attenti, non è tutto, naturalmente non è tutto così, ci sono moltissimi casi in cui invece un impegno dei privati è utile. E quindi anche in questo campo bisogna trovare le soluzioni migliori, e di norma sono anche il prodotto di una forte capacità di cooperazione fra pubblico e privato. Dopo queste riflessioni è credo doveroso però dare la parola ai comitati referendari sull'acqua. Sentiamo le ragioni del sì, cioè di quelli che vogliono abrogare, cancellare le attuali norme, e poi le ragioni del no. I quesiti riguardano, lo ricordiamo, il primo, le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e il secondo, la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. I motivi del perché cambiare ce li esprime Emilio Molinari, che è il presidente del Comitato Italiano del Contratto Mondiale dell'Acqua ed è membro del comitato referendario Due Sì per l'Acqua Bene Comune. Il primo quesito semplicemente lascia libero i comuni di scegliere se privatizzare o rimanere pubblici. Il secondo quesito toglie anche lì un'anomalia, anche dal punto di vista del mercato, solo italiana, che introduce il fatto che i privati che gestiscono il servizio idrico hanno la garanzia del 7% di remunerazione del capitale investito, cioè senza rischio di impresa. Non esiste nessuna parte al mondo, e noi togliamo questa cosa, perché anche vogliamo dire che l'acqua, non altri servizi, ma il servizio acqua non può generare profitto per nessuno. Io credo che oggi, quando parliamo del colabrodo che è stato il servizio idrico nazionale, dobbiamo tener conto che questo colabrodo era prevalentemente al sud e in parte al centro Italia, e che ormai è stato privatizzato, e che i privati in 10 anni non sono stati in grado di migliorare il servizio, di fare gli investimenti e di riparare le reti. Non stiamo mitizzando il pubblico, stiamo dicendo che se il pubblico non è in grado di funzionare, si caccia quel pubblico lì, nel senso che si punisce il politico, si punisce l'amministratore, ma non è una buona ragione che debba subentrare il privato. 65 miliardi in 30 anni sono poco più di 2 miliardi all'anno di investimenti. Erano esattamente quelli che lo Stato e gli enti locali facevano prima del 1994. L'acqua è un diritto. Perché non cambiare? Walter Mazzitti è il presidente del Comitato per il No ai referendum sui servizi pubblici locali e tariffa dell'acqua. È stato in passato presidente del primo comitato di vigilanza dell'uso di risorse idriche introdotto dalla legge Galli di riforma del Servizio Idrico Nazionale, poi anche coautore del metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe dell'acqua approvato nel 1996. La privatizzazione è un concetto assolutamente fuori luogo in questo contesto, perché se c'è una immissione del privato prevista dall'articolo 23 bis che si vuole abrogare, è una immissione molto limitata, il 40% delle società pubbliche, quindi che rimarrebbero sempre a maggioranza pubblica. Il pubblico ha bisogno ovviamente di un soggetto forte, motivato, che abbia capacità finanziarie, che abbia capacità gestionali per poter avviare questo processo di ricostruzione di un sistema assolutamente degradato, vecchio, obsoleto, con tutti i record negativi possibili e immaginabili. È il risultato di una gestione pubblica che è fallimentare. I dati ufficiali dicono che abbiamo bisogno di 65 miliardi di investimenti in 10 anni per mettere a posto questo sistema, ripeto, che fa acqua da ogni parte. Il fatto che ci siano alcuni privati che non hanno dato ancora i risultati sperati, questo è un problema sicuramente minimale rispetto a quello che è il grosso dei problemi. Ovviamente Nell'apertura di un mercato c'è bisogno sempre di un arbitro, quindi il futuro sta tutto nella regolazione, quindi noi dobbiamo da una parte predisporre le condizioni perché pubblico e privato lavorino insieme bene nell'interesse del cittadino e del mercato, dall'altra parte è necessario, così come è avvenuto, poter contare su un authority, un organo al di sopra delle parti, svincolato dal potere politico, che sia il referente pubblico, istituzionale del cittadino, e dall'altra parte che sia arbitro e regolatore del mercato. L'altro pianeta. E l'altro pianeta prosegue come di consueto con l'intervista questa settimana a Patrick Moore. Chi è e perché l'abbiamo intervistato ce lo racconta Cristina Carpinelli. Patrick Moore, lei è in Italia per presentare il suo libro L'ambientalista ragionevole. È di fatto un libro che racconta il perché, dopo aver fondato negli anni 70 Greenpeace, poi nell'86 l'ha abbandonata. Ecco, allora, signor Moore, io partirei da qui. Perché ha deciso di uscire da Greenpeace a un certo punto? Well, I found myself, I was one of... Sono stato uno dei cinque fondatori negli anni 70 di Greenpeace ed ero l'unico con una formazione scientifica. Ho cominciato a capire che l'orientamento del gruppo non andava bene quando si è scontrato con la mia conoscenza scientifica. Ad esempio, quando Greenpeace ha deciso di essere contro il cloro in tutto il mondo. L'iniziativa fu avviata in modo abbastanza innocente. Poi non ci volle molto perché questo importantissimo elemento della tavola periodica venisse ribattezzato elemento del demonio dalla maggior parte dei membri del nostro consiglio direttivo. Cercai di far capire che non avevano preso una giusta decisione. Non essendo stato ascoltato, decisi di diventare indipendente e di usare la mia conoscenza per parlare agli altri. Lei però, uscendo da Greenpeace, è come se avesse preso una strada altrettanto estrema, ad esempio sul nucleare. Si è detto favorevole e ha anche detto che il nucleare non è pericoloso. Sono cose a cui crede ancora oggi, dopo il disastro di Fukushima? Yes, sì, è vero, fino al 1986 io ero dentro Greenpeace e mi battevo perché si bloccasse la caccia alle balene, perché si fermassero le centrali nucleari, perché si diceva che l'energia atomica non rispettasse l'ambiente, eccetera, eccetera. Ebbene, io credo di aver compiuto allora dei giganteschi errori. Si crede che ogni tipo di centrale nucleare sia il demonio, che ogni tipo di scoria sia demonio, che l'energia prodotta col nucleare sia dannosa. È ovviamente un gravissimo errore. E invece dobbiamo riconoscere che l'energia atomica è molto importante, che porta benefici altrettanto importanti alla ricerca tecnologica. Se usiamo lo spettro della paura, allora dovremmo dire che anche la medicina nucleare potrebbe essere pericolosa, che la radioterapia può essere pericolosa. Ci sono tante cose che in potenza potrebbero essere pericolose e alcune lo sono molto più che l'energia nucleare. Sì, capisco, signor Moore, però le chiedo perché tutto questo spingere verso il nucleare quando abbiamo il solare, l'eolico e altre forme di energia che si stanno affermando anche con grandissimi successi. E poi, a questo punto, visto che il tema è stato introdotto, le chiedo, anche secondo lei, quali urgenze ha il nostro pianeta? Dunque, la più grande emergenza per il nostro pianeta è l'aumento della popolazione combinato con l'aumento del tasso di povertà. Tutto questo genera un bisogno sempre più elevato di energia. E dunque la reale emergenza è dare vita a una forma di energia che non faccia pagare un prezzo così alto di costi effettivi. Ed è per questo che io sostengo lo sviluppo del nucleare. Consideriamo che oggi circa l'80% dell'energia proviene dal petrolio. Dobbiamo cambiare le cose. Purtroppo questo problema non viene sentito come dovrebbe e purtroppo l'energia solare o eolica non bastano per risolvere il problema, perché sono forme di energia costose, impraticabili sui grandi numeri. Poi sono forme di energia instabili. Provate a immaginare cosa accadrebbe se non ci fosse il petrolio, ma solo il solare a un ospedale o una scuola. Ogni tanto tutto si fermerebbe per 2 o 3 giorni. Non possiamo davvero permettercelo. Il sole e il vento non risolveranno il nostro problema. Dobbiamo metterci in testa questo. Il nucleare è sicuro, pulito, economico rispetto ad altre forme di energia, anche ai costi effettivi e realizzabili, insomma. It is clean, it is reliable. Io non sono d'accordo su quanto lei dice. Come fa a dire che il nucleare è sicuro, soprattutto dopo quanto visto in Giappone? And yes, Fukushima was. Sì, è vero, a Fukushima c'è stato un brutto incidente, ma ricordati che nessuno è morto per le radiazioni, ma in migliaia sono morti per lo tsunami. Le radiazioni sono state molto basse e quindi, secondo gli esperti, nessuno morirà per questa causa. Per questo dico che l'energia nucleare è la più sicura che abbiamo. Cambiamo argomento. Se lei fosse un italiano, per cosa si batterebbe? Qual è, secondo lei, l'urgenza che ha l'Italia? Se fossi italiano mi batterei per ampliare gli spazi verdi, mi batterei per la riforestazione di molte aree, mi batterei per piantare alberi, per costruire un progetto di riforestazione dell'intera Europa nelle aree dove tutto questo è possibile. L'imperativo è riforestare il più possibile dove è possibile. Un'altra cosa che farei se fossi italiano è spingere il mio paese a guardare molto gli altri paesi. L'Italia, purtroppo, ha il difetto di focalizzarsi molto sui suoi problemi e non guardare all'esterno. Grazie a Cristina Carpinelli per questa intervista. Andiamo all'altra nostra rubrica. Articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice la Repubblica tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione, e ci accompagna come sempre Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati, ecco al consueto appuntamento con gli amici del FAI. È in collegamento con noi Costanza Pratesi, che è la responsabile dell'Ufficio Ambiente del Fondo Ambiente Italiano. Buongiorno dottoressa Pratesi. Buongiorno a tutti. Allora, lei oggi so che ci vuole accompagnare in Liguria, in un luogo celeberrimo, Santa Margherita Ligure, una delle perle del Golfo del Tigullio, insieme a Rapallo e insieme a Portofino. Ecco, perché ci porta in questo bel posto? Perché dovremmo venire in questo bel posto? Ci porterei perché è veramente un posto incantevole, no? Ammirato da poeti, scrittori, in tutta la letteratura. È un posto meraviglioso, un piccolo incanto che si affaccia su un golfo altrettanto meraviglioso. Oggi ha un pericolo che da tanti anni si affaccia davanti a loro, cioè questo di essere anche un piccolo porto, ma la sua meraviglia direi è nota forse già a tutti gli ascoltatori, ma chi non la conoscesse insomma merita di essere vista una volta. Ecco, sì, io mi permetto di consigliare di affrontare questo luogo evitando l'automobile, ma utilizzando la rete delle barche, dei battelli, che è molto frequente, molto comoda, che permette appunto di ammirare, partendo dal porto di Rapallo, proprio tutta la costa Ligure, approdando a Santa Margherita, vedendo i piccoli paesi di Paraggi, di San Michele in Pagana, fino a Portofino, e poi da Portofino c'è la possibilità di raggiungere un luogo del FAI, vero? Certo, ma certo, direi ci siamo noi, ma anche posso aggiungere e suggerire anche il treno, che è un mezzo meraviglioso per trasferirsi lungo la costa Ligure, perché veramente è sul mare, ecco, sì. E oggi lo troviamo, oggi forse non si farebbe più così invasivo, diciamo, ma ritroviamo oggi questo percorso che viaggiando lungo il mare appare il mare nel suo incanto in queste stazioncine spesso ancora veramente deliziose, come per esempio quella di Santa Margherita. E invece da noi al FAI, all'Abbazia di San Fruttuoso, si arriva solo via mare o a piedi, attraversando anche qui luoghi meravigliosi. Però se siamo in questo posto, se il FAI ha acceso l'attenzione su questo luogo, che apparentemente è un piccolo paradiso, anche se molto urbanizzato, molto abitato, è perché, lei già lo alludeva, c'è un pericolo che incombe proprio su Santa Margherita Ligure. Cosa vogliono fare a questa perla del Tigullio? Santa Margherita appunto ha da sempre, come tutte queste meravigliose località liguri, il porto, un porto che parte diciamo naturale dell'identità anche del luogo, no? Perché l'accoglienza delle barche è anche un modo di vivere questo territorio che comprende proprio il mare e anche attraversare, come diceva anche lei, il mare come anche mezzo su cui, modo su cui trasferirsi, come spostarsi da un porto all'altro. Sono però piccoli porti di accoglienza, è un porto porto rifugio, non è un porto vero e proprio, diciamo quasi turistico come ci sono in alcuni altri luoghi, già peraltro della Liguria, ma anche in altri, conosciamo altri sul Mediterraneo, insomma di luoghi di porti turistici con molte barche, quindi ecco, un po' strane anche alla loro, al territorio. E incombe il pericolo di un grande porto, lei vuol dire? Sì, da molti anni, ogni tanto sì, c'è questa tentazione di trasformare questo piccolo porto rifugio, che oggi è praticamente un tutt'uno anche con l'entroterra, perché Santa Margherita si affaccia su questo suo piccolo porto rifugio, che è un po' specchio dell'abitata, no? E ne dà natura stessa al riconoscimento dell'essere Santa Margherita, un luogo dove il mare giocava, no? il suo grande ruolo anche come per il suo sviluppo, per le attività che vi si facevano e che vi si fanno. Ecco, però era un porto amico, un porto piccolo, un porto proporzionato rispetto alla baia e rispetto anche a quanto c'è costruito su Santa. Qui si cerca invece di farlo diventare un vero e proprio porto turistico. Quindi c'è un progetto in questo senso? Certo, un po'. La tentazione viene sempre dalla scusa di mettere in sicurezza il piccolo porto rifugio, che chiaramente essendo un porto rifugio d'inverno non consente, quando no, il mare quindi va in tempesta, non consente lo stazionare di grandi barche, tipo cioè, grandi yacht in sostanza non possono ormeggiare lì e starci per tutto l'inverno, per esempio, hanno bisogno di cercarsi un rifugio più sicuro. E ecco, qui questa idea è quella di dire facciamolo allora diventare un porto turistico e molto grande, ma questo ed è evidente a chi voglia vedere la pianta di questo disegno, che peraltro sulla rete, sul web si trova, trasforma improvvisamente, ribalta la proporzione tra il porto rifugio e l'edificato, facendo diventare questo, cioè quello che era un piccolo borgo che si affaccia sul golfo e quindi si apre al mare, un piccolo borgo che si affaccia su un porto chiuso. Io ringrazio la dottoressa Pratesi del FAI per questa sua testimonianza. Coraggio, tenete duro, segnalateci quelle che sono i pericoli del nostro patrimonio ambientale italiano. Grazie a lei, dottoressa. Grazie a voi, continueremo a farlo. Grazie ecco, a voi. Ecco, e grazie agli ascoltatori. Grazie a tutti voi per l'ascolto, l'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Per scrivermi, vi ricordo, laura.bettini@radio24.it.